la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, e in questo giovedì 9 novembre alle 16.8 primi e 11 secondi, grazie per l'ascolto in diretta in podcast della versione di Oscar, e vi dico subito di che cosa parliamo oggi. Torniamo, facciamo una specie di bilancio, perché sentiremo quattro sindaci dei comuni colpiti dal doppio terribile sisma del centro Italia, che avvenne il primo il 24 agosto con le sue prime 300 vittime, e poi avvenne un anno fa nel centro Italia, in questa zona a cavallo tra le Marche, l'Umbria, l'Alto Lazio, e per capire nel secondo inverno come siamo messi rispetto alle promesse. Quindi sentiremo direttamente loro. Io vi dico solo che secondo me, e va ed è un suo merito, la stampa di oggi, la stampa di Torino, apre il giornale e dedica le prime due pagine a un titolo molto semplice, ma che esprime con tutta l'amarezza del caso la sintesi estrema del che cosa è avvenuto e ancora oggi avviene rispetto alle promesse che per l'ennesima volta, di fronte a quei sismi e al loro bilancio terribile di vittime e di distruzioni, venne fatto ancora una volta dalla politica, che ci disse: abbiamo imparato le lezioni del passato, rapidità, eccetera, eccetera. E invece il titolo della stampa dice tutto: senza casa. I terremotati del centro Italia affrontano il secondo inverno in roulotte e camper. Domanda, tra virgolette, e tutte le due pagine sono piene di testimonianze, di fotografie, di storie, che si sintetizzano in quest'altra semplice frase: per quanto tempo dobbiamo vivere così? Ci sono comuni, e ne sentiremo il sindaco uno dei quattro, per esempio Visso, in cui nessuna delle 238 casette richieste è stata consegnata. In generale, delle migliaia richieste, siamo approssimativamente a poco meno di un terzo di casette consegnate. E per quello che riguarda le macerie quindi concentrate soprattutto rispetto ai 151 comuni nei 55 di quello che è il cratere vero, ho criticato più volte l'estensione rispetto al cratere dei comuni che certo hanno subito danni, ma non paragonabili a chi ha avuto la distruzione molto ampia del proprio tessuto urbanistico, viario e infrastrutturale. Invece ancora una volta l'abbiamo esteso e quindi non l'abbiamo imparata la lezione dell'Irpinia, per essere chiari, però nella cinquantina di comuni che rappresentano il cuore dolente delle distruzioni, la stragrande maggioranza delle macerie è ancora lì esattamente dove era, per problemi amministrativi, burocratici, tutto quello che volete voi, ma insomma la situazione è ancora questa. E allora si tratta di fare una ricognizione diretta attraverso i sindaci di come stanno le cose e di sentire da loro, di chiedere a loro qual è la lezione imparata, che cos'è che non ha funzionato, che cos'è che funziona, perché poi non bisogna generalizzare. Come sempre, straordinaria l'Italia nella macchina dei soccorsi di emergenza immediata per salvare vite. Poi, quando da quello si tratta la gestione ordinaria comunque della straordinarietà, cioè rimozione macerie, ripristino opere, i primi interventi per garantire a chi vuole restare lì, si dice sempre non bisogna deportare la gente perché poi i centri muoiono, i centri urbani, e cioè le soluzioni delle case di emergenza per un periodo transitorio, ecco, man mano che si va sull'ordinaria amministrazione della gestione straordinaria, l'Italia perde colpi, e perde colpi perché il suo ordinamento amministrativo, i poteri che lo Stato centrale ancora una volta si è dato col commissario straordinario rispetto a quelli delle regioni, e poi al problema di chi deve gestire in prima fila l'emergenza e la sostituzione dell'emergenza con una condizione almeno vivibile, cioè i sindaci, ecco, a quel punto entrano in attrito e quello che si promette in alto non arriva in basso. Lasciatemi solo dire una cosa prima di iniziare con il primo ospite. Stamattina c'è stata alla commissione parlamentare di inchiesta su le vicende bancarie una audizione del responsabile di vigilanza della Consob, il cui contenuto troverete domani sui giornali, ma che spero faccia riflettere molti, perché la Consob ha formalizzato che dal 2008 in avanti, su molte vicende che sono state di volta in volta toccate in questa audizione, non è stata messa in condizione, non ha ricevuto informative dalla Banca d'Italia sui rischi che c'erano relativi a diverse delle banche poi finite gambe all'aria. Ne ha saputo negli anni ancora più delicati, dal 2010, 2011, 2012 e 2013, risultati delle ispezioni nelle due venete che avrebbero posto in condizione la Consob di esercitare un diverso intervento sia sui prezzi non quotati di quelle banche, fissati dalle banche stesse, sia sulle emissioni di obbligazioni subordinate. Naturalmente bisognerà approfondire la cosa, risentiremo che cosa Banca d'Italia dirà. Nel frattempo anche Banca d'Italia sta facendo la propria audizione, non è stato possibile un confronto, sono due audizioni in veste testimoniale ma separata, sulle agenzie si trovano prime risposte che dicono che la Banca d'Italia valuta che cosa dire o meno alla Consob. Io vi dico subito che questa conferma formale dovrebbe indurre la politica a una riflessione profonda su come va modificata la gestione delle competenze di Consob e Banca d'Italia. Io vi rinvio per questo a Sebastiano Barisoni, approfondiremo con i compari dei Conti della Belva la faccenda sabata. Io vi dico solo che di modelli che funzionano negli altri paesi europei ce ne sono. Pensate che in Germania, per esempio, BaFin, che è l'equivalente della nostra Consob, e Bundesbank, che è naturalmente l'equivalente della nostra banca centrale, hanno tre diversi livelli di cooperazione obbligata che sono definiti dalla legge, non discrezionali. Il primo livello è quello dell'accesso consentito direttamente dalla BaFin, cioè Consob, a tutto il database che riguarda le banche vigilate dalla Bundesbank. Accesso diretto dei dati, da noi l'accesso diretto dei documenti reciproci non se ne parla neanche. Secondo, nelle riunioni del BaFin, degli organi del BaFin in cui si affrontano vicende bancarie, è presente direttamente, sia pur senza diritto di voto, BaFin, e quindi ci si confronta direttamente, e questo metodo mi sembra molto preferibile. Terzo, c'è un organo, un consiglio finanziario in cui interviene anche il governo. In Italia non si potrebbe fare perché il BaFin è un'autorità indipendente, ma meno indipendente del nostro Consob in Germania, perché in realtà ricade sotto la competenza del Ministero delle Finanze federale, e in quest'organo formalmente avviene un confronto tra i due organi di cui il governo è consapevole, poiché è presente anche lui, esattamente sull'intervento nelle materie di vigilanza in cui le competenze possono essere sovrapposte, e si distinguono le materie della vigilanza tra quelle che vengono poi esercitate da BaFin, che è quella per esempio che vigila sull'emissione degli strumenti come sulla liquidità degli istituti bancari, rispetto a quelle che invece vengono attribuite ed esercitate dalla struttura territoriale della Bundesbank, e queste sono soprattutto il controllo della fedeltà delle scritture contabili e di bilancio e la credibilità dei piani annunciati dalle banche stesse. Vedete come una formalizzazione dei rapporti potrebbe evitare esattamente ciò che invece sta drammaticamente emergendo con le due autorità di regolazione italiane, Banca d'Italia e Consob, che dicono reciprocamente: non mi hai detto, non hai fatto. Tutto qui, non voglio fare polemiche. Iniziamo a sentire però direttamente il primo sindaco per capire nel suo comune come stanno le cose rispetto alle promesse e come stanno le cose soprattutto rispetto a coloro che stanno ancora lì e per il secondo inverno, diciamo, si trovano in condizioni ancora molto diverse da quelle che erano state promesse in agosto e poi un anno fa. Allora, abbiamo con noi il sindaco di Arquata del Tronto, quindi stiamo parlando del provincia di Ascoli Piceno, Michele Franchi. Buon pomeriggio sindaco, grazie di essere con noi. Buongiorno e grazie, vice sindaco. Comunque, vice sindaco, fuori, ha ragione. Non ti preoccupi, no, non voglio mancare di rispetto al sindaco. No, ma sicuro, no, sicuramente ha ragione. Com'è la condizione da voi? La condizione da noi è ancora, non possiamo ritenerci soddisfatti, non possiamo neanche lamentarci. Diciamo che qualcosina in più aspettiamo e speriamo che in questi giorni ci sia la clemenza del tempo, perché mancano solo tre aree da consegnare, il 60% delle casette le hanno consegnate. Quindi da voi il 60% è stato consegnato? Sì, però il discorso è che stiamo un po' in ritardo, speravamo di chiudere per l'estate, invece chiuderemo per l'inverno, per inizio inverno. E pensare che lunedì qui ha messo la neve a bassa quota, per noi è qualcosa che ci fa pensare, perché a 400 metri sul livello del mare noi abbiamo frazioni che vanno da 700 fino a 1200, e sarà dura lunedì fronte a una nevicata e con le casette ancora da consegnare. E avere ancora la popolazione al mare non è un bel segnale. Ecco, ma chi non ha avuto la casetta consegnata dove sta? In albergo. In albergo al mare. In albergo, però diciamo che adesso è ora che rientri. Ci sono tanti problemi. Ci sono tanti problemi purtroppo dovuti anche al fatto delle consegne anche delle casette, perché dal quadro è un territorio purtroppo montano, per trovare le arie ci è voluto tanto tempo, perché devi trovare l'aria idonea che non frana, che è un terreno pianeggiante, un terreno di montagna, un territorio di montagna è molto difficile. Poi sono stati 4 eventi sismici, non lo ricordiamo, perché al quadro è stato il fulcro di tutto. I ritardi sono un po' una somma di tutti quanti, la colpa di tutti, non dire di, non voglio accusare nessuno, perché fare polemiche... No, ma non è questione di polemiche, si tratta solo di dire, per esempio, che tipo di procedura... Cioè, uno impara, purtroppo, ne farebbe io a meno. Io ho imparato ogni terremoto la storia a sé, e ognuno fanno l'equiparazione con l'Aquila, con il terremoto del 97 delle Marche, con il terremoto dell'Emilia Romagna, un terremoto a sé, perché le aree cambiano. Il discorso che si dovrebbe fare tesoro sia degli errori che delle cose che sono andate bene gli altri terremoti. Però si inizia sempre da capo, purtroppo, quello che vedo io. E poi devo dire che il male grande è la burocrazia, perché devo dire che i dirigenti in questo terremoto molte volte non si prendono nessuna responsabilità, pochissime. Non è solo la politica, molte volte ci si prende responsabilità. No, infatti, sono le norme amministrative che espongono a rischi per ogni tipo di decisione. Io vi voglio fare un esempio. Sì. Noi avete visto tutti quanti le immagini da qua, dal Tronto, di Pescara del Tronto, rasa al suolo. Al qua del Tronto, dopo un anno, abbiamo tolto le macerie. Sapete il motivo perché? Perché una casa, un'abitazione, non c'era l'autorizzazione, chiamata in gergo manleva del proprietario, che autorizzava la demolizione di quel fabbricato. E noi perché il proprietario si può opporre 4 mesi, nei vigili, esercito, nessuna ditta si è presa la briga di operare. Una volta che abbiamo convinto il proprietario, però questa in legislazione dovrebbe essere tutto un po' più semplice. E se trovi il tecnico che rischia, va bene, se trovi il tecnico che non rischia, che vuole essere proprio ligio al dovere, giustamente all'ordinanza, all'ordinario, perdiamo del tempo. Diciamo che l'Arquata è rimasta molto ordinario, abbiamo legiferato molto ordinariamente, anche se il commissario qualcosa ce l'aveva dato in qualche carta in mano da giocare. Ma invece sulla rimozione delle macerie e sulla situazione delle infrastrutture, soprattutto viarie, ma non solo, a che punto siete? Noi sulle macerie siamo, diciamo, a buon punto per le macerie, quelle pubbliche che sono sulle vie principali, perché abbiamo fatto le priorità, abbiamo liberato ovviamente le strade provinciali e le strade che costruivano dove andavamo a costruire le casette o le abitazioni dove erano agibili. Quindi lì siamo riusciti a creare nel tempo, partiti un po' a rilento, poi abbiamo in grado la quinta e stiamo a buon punto. All'interno dei paesi adesso le macerie private, quelle siamo un pochino ancora in ritardo, però diciamo che non ci possiamo lamentare, siamo partiti un pochino male perché portando le macerie a Roma non è stato un bello spettacolo, però sempre dovuto al fatto della burocrazia, perché non avevamo un terreno idoneo dove poter, secondo l'ARPAM, non dover poter far stare le macerie perché sennò creavano percolato. Allora, l'Agenzia regionale dell'ambiente, sì. Sì, abbiamo avuto anche, giustamente, diciamo che noi il terremoto abbiamo rispettato le leggi al 100%, giustamente, perché io sono per la legalità in tutto e per tutto e sono convinto. Sì, ma vice sindaco, il problema non è quello, il problema è se dopo un sisma tutto il complesso di norme, che è giusto che vigano in tempi ordinari, debbano continuare. Qualche norma è stata anche cambiata, ma doveva essere cambiata, perché pensare che anche le terre da rocce da scavo, le faccio un esempio, noi abbiamo scavato tante tanta terra per, come detto, un territorio di montagna per fare queste benedette, sai, situazioni di emergenza. Adesso per 18 mesi non abbiamo autorizzazione, queste terre sono come delle terre messe da parte che possono stare in questi terreni autorizzati ai proprietari dall'ambiente. Tra 18 mesi, se noi non troviamo una legge che legifera questo, dobbiamo riportarle via queste rocce da scavo perché diventano rifiuti. Cioè, questo io voglio far capire molte volte, perché dice il piano regolatore non lo permette. Cioè, io per dirti, faccio un esempio: c'è la mia frazione, è una frazione grande arcuata a Spelonga, che ha un terreno dove abbiamo tombato queste terre, che sono classiche terre d'orto, proprio non sono rifiuti. Però secondo la legge queste terre fra 18 mesi diventano rifiuti e devono essere smaltite. Allora il discorso dico io, una volta che ci hai fatto un bel parcheggio potrebbe andare bene sia per rifarci un orto, per rifare qualsiasi cosa, portarle via un ulteriore costo per la comunità. Io questo non delle volte l'ho già fatto presente, so che la Regione Marche sta vedendo di trovare di scrivere una legge ad hoc. Ho fatto presente al nuovo commissario Paolo Di Micheli, credo che si trovi anche il ministro dell'ambiente mi ha detto che era una cosa che non stava in giro né in terra, perché all'Aquila è successo questo, dopo 18 mesi alcune terre sono state portate via. Ma io dico, dove c'è giustamente del materiale, come si possono essere il calcestruzzo, le cose degli scavi portati via dalle abitazioni crollate, ci mancherebbe altro, ma dove è terra, comune terra di montagna, credo che non ci siano problemi, anche se da noi c'è il parco, capito? Oltre a questo ci sono due parchi nazionali. Ci sono i vincoli per di più. Che sono dei vincoli, poi il comune acquata tutti questi vincoli paesaggistici. Sono cose che è giusto che ci siano, però in un terremoto credo che qualche cosa in deroga ci sono state fatte, tante deroghe, qualche deroga in più ma neanche, non sono state neanche date, perché se nessuno legge bene le leggi è che qualche anche burocrate all'interno sia dell'amministrazione comunale che dell'amministrazione diciamo regionale, perché ti scondi delle volte ad interpretare la legge, e molti, l'ho detto purtroppo, quello che devo dire io, perché sono rammaricato che molti dirigenti, una volta mi ricordo la politica quando faceva mio padre 30 anni fa e contava più il politico che il dirigente. Adesso i mister sì e mister no sono tutti quelli i vertici della PA. A me dispiace dirlo perché molte volte dispiace dirlo, perché la gente si prende spesso con noi politici e giustamente, perché molte volte giustamente, facciamo giustamente, voi siete eletti, portate la responsabilità, però nessuno si lamenta dei dirigenti, ma non lo sa, la gente comune non ha idea che ad avere il potere di sì o di veto è il dirigente amministrativo, purtroppo non lo sa. Quindi il politico bravo è quello che riesce a, io voglio dire che noi poveri amministratori di comuni piccoli ci abbiamo messo la volontà, la voglia, credo che tutte le forze politiche si sono state vicino su questo, io non faccio campagna elettorale, ne mancherebbe altro, il governo è stato vicino, le forze politiche, tutti i partiti sono stati da qua a darci una mano, la società civile è stata veramente fantastica, il mondo del volontariato, diciamo che se dobbiamo trovare il pelo nell'uovo, la burocrazia ci ha massacrato. Però guardi, io voglio parlare anche di cose positive, voglio dire che c'è una scuola che funziona, che i bambini sono tornati, anche l'80% dei bambini sono tornati a studiare dal quadro del tronto, qualcuno abbia perso per strada. Adesso riapriamo una fabbrica di Della Valle, che porterà altro lavoro d'arquata. Io voglio parlare anche di cose positive. No, ma non c'è dubbio, io le do atto che lo spirito è costruttivo e combattivo, per così dire. Naturalmente la nostra trasmissione è quella di far capire a chi è a casa qual è l'origine dei problemi risolti. No, ci sono tanti ritardi, perché adesso io le dico, se lunedì nevica come dice, noi dobbiamo consegnare le casette per le altre tre aree entro il 20-25 di novembre, tutte e tre le aree, credo che slitti. Vediamo, speriamo, e un abbraccio a chi sta in queste condizioni. Intanto grazie e buon lavoro al vice sindaco di Arquata del Tronto, e saluti anche al sindaco. Ci ha raggiunto intanto il sindaco di Visso, quindi ci spostiamo, andiamo nel maceratese, Giuliano Pazzaglini, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Da voi invece le cose come stanno? Iniziamo da casette chieste e casette consegnate. Allora, da noi le cose sono in alto mare, sia per quanto attiene alla gestione dell'emergenza, che per me finirà solo quando saremo riusciti a far rientrare tutte le persone, perché qualcuno erroneamente crede che l'emergenza consista nel portare le bevande calde e le coperte il giorno dopo, e non è così. L'emergenza è quella legata alle persone e finirà quando rientreranno le persone. Ad oggi non è rientrata nessuna. Nessuno. E questo perché una protezione civile esautorata dalle proprie competenze che non può fare la protezione civile, che per realizzare le casette deve seguire 9 passaggi, è evidente che non può essere efficace. Noi abbiamo una delle migliori protezioni civili al mondo, una Ferrari, e non gli fanno mettere più della prima. E poi non ci lamentiamo che le casette non arrivano. Passando alla ricostruzione, invece, prima sentivo che c'è troppa burocrazia, ma si ringraziava il governo. Io sinceramente ho il massimo rispetto per tutti i colleghi, ma non condivido assolutamente questo punto di vista, perché il governo e il Parlamento erano gli unici che potevano semplificare la burocrazia e invece l'hanno aggravata con 41 ordinanze del commissario, le ordinanze del capo dipartimento della protezione civile, la 189 del 2016. Quindi il risultato è che un regio decreto del 1904, il 523, ancora mi impedisce di ricostruire decine di case. E allora è il momento di spiegare cosa non funziona. Se non si adotta una legge speciale che deroghi alla maggior parte degli strumenti urbanistici e legislativi vigenti, le nostre realtà non si ricostruiranno, o se si ricostruiranno sarà troppo tardi, cioè arriveremo a realizzare questi musei a cielo aperto dove non tornerà nessuno. Io devo dire la verità, sindaco, a febbraio di quest'anno, nel mentre si ponevano le premesse per arrivare insomma il governo Gentiloni, scrissi 2 articoli sul Messaggero in cui dicevo forse la cosa migliore, Gentiloni, è fare una grande assemblea dei sindaci e sentire direttamente da loro quante deroghe. Qui non stiamo parlando, cari ascoltatori, le deroghe per fare case di speculazione edilizia e abusi edilizi. Qui stiamo parlando di deroghe su eccessiva già legislazione vigente rispetto ai tempi ordinari. Ma rispetto a ciò che... un esempio, per fare ripostiglio per gli attrezzi in giardino ci vogliono 2 anni in Italia. Ma come pensiamo di ricostruire dei comuni con questi strumenti? Esattamente. Purtroppo io poi ho preso atto che invece è man mano scivolata via dalla centralità dell'attenzione dell'agenda. Posso essere cattivo? No, deve. Allora, io penso che non è un caso che ci siano 3 provvedimenti sottili, per carità, ma finalizzati tutti allo stesso scopo: escludere le piccole imprese locali dalla ricostruzione. E quindi se continuiamo con la linea del pensar male, evidentemente allora questo è un disegno preciso. Se vuole posso essere più preciso nell'indicare i 3 provvedimenti. Dica, e perché escludono le imprese locali. La gente non lo... No, ma la trasmissione è fatta per dare elementi oggettivi a chi ascolta per capire che cosa è successo e cosa sta succedendo. Quindi allora, se ce li dici ci fa un favore. Certo, gli elementi oggettivi sono questi. C'è un provvedimento nella ordinanza 19, se ricordo bene, che fissa il termine per l'ultimazione dei lavori in 2 anni con una proroga massima possibile di 6 mesi, ed è evidente che le piccole aziende locali con 6-7 massimo 10 dipendenti, 10 operai, non sono in grado di rispettare questi termini. Magari lavorerebbero molto meglio, però potrebbero aver bisogno di 6 mesi in più, perché bene e subito di solito non vanno d'accordo. Oltre a questo poi c'è il recentissimo provvedimento che prevede l'obbligo dell'iscrizione della SOA per la realizzazione dei lavori, cioè praticamente si cambiano le carte in tavola per favorire chi questa SOA l'ha e sfavorire evidentemente chi non ce l'ha, ma non è che non ce l'ha perché sia meno preparato o meno professionale rispetto agli altri, ma semplicemente perché fino a ieri non era, esatto, e le nostre piccole imprese locali non ce l'hanno. Poi c'è l'ultimo provvedimento, ma veramente sottile questo, di cui ho parlato più volte sia con l'attuale che con il precedente commissario, ma anche degli altri 2 avevo parlato. Comunque l'ultimo è questo, che prevede che io debba indicare l'impresa che eseguirà i lavori a casa mia al momento del deposito del progetto. Il deposito del progetto però non significa che si possono iniziare i lavori, perché il progetto deve essere approvato con la burocrazia che conosciamo, con tutti i vincoli che ci sono nelle nostre zone, quindi nessuno sa quando questo progetto sarà approvato, potrebbe passare anche un anno. Allora la piccola impresa locale con 7-8 operai può aspettare un anno per fare i lavori a casa mia? Ovvio. Evidentemente no. La grande cooperativa con 200 operai, con 10 squadre, invece non ha problemi ad adeguarsi, perché con la turnazione delle squadre evidentemente è in grado di assumere più impegni. Allora è ora che si dica chiaramente che questa ricostruzione viene gestita per fini che non sono quelli propri delle popolazioni più colpite. E la dimostrazione evidente appunto nella mancanza delle casette, nella mancanza dell'avvio dei lavori di ricostruzione, ma anche della non conoscenza del nostro futuro. Io ad oggi non so se potrò ricostruire la piazza di Visso, uno dei borghi più belli d'Italia, una bandiera arancione del Touring Club, la sede di un parco nazionale, perché storicamente a Visso ci si difendeva con l'acqua, c'era una simbiosi per cui con un sistema di chiuse allagavano l'area circostante e le mura e creavano un enorme fossato, ed è evidente che questa è una criticità idraulica, non tale da minacciare la pubblica incolumità, però una criticità idraulica lo è, e per questo io ad oggi non posso ricostruire Visso, cioè nella nazione che ospita Venezia. Pazzesco. Non si può ricostruire uno dei borghi più belli d'Italia per 20 centimetri di acqua che potrebbero arrivare in piazza. Sindaco, io la ringrazio per la serena sincerità con cui secondo me ha indicato almeno alcuni dei maggiori problemi. Io penso che la RAI, il servizio pubblico, avrebbe dovuto occuparsene continuativamente, per esempio, cioè avrebbe dovuto istituire un servizio di approfondimento mese per mese che seguisse quello che stava avvenendo e che non stava avvenendo, per spiegare perché, e incalzare le autorità centrali, le regioni, ma soprattutto le autorità centrali, a cambiare ciò che si è rivelato ancora una volta, e posso dire peggio che nelle altre volte, perché le norme si accumulano, si sedimentano, magari se ne producono di nuove con obblighi aggiuntivi incredibilmente dopo il terremoto, come questi contro le imprese locali. C'è proprio bisogno, con quello che è avvenuto, di estirparne altre di imprese? Datevi una risposta, cari ascoltatori. E invece, e devo dire la verità, nel servizio pubblico nemmeno l'ho visto, ma è una colpa generale dell'informazione, a dire la verità. Però più che dire sostegno totale a chi si sbatte da un anno, e già erano condizioni di parti dell'Italia non particolarmente nel focus della politica, degli incentivi, delle misure, quelle che colpite dal terremoto, però io anche al sindaco di Visso, Gianni Passaglini, i ringraziamenti a nome di tutti i nostri ascoltatori. Noi siamo qua sempre a disposizione. Intanto adesso andiamo a sentire che cosa capita in borsa e un po' di pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Molti gli sms, c'è chi dice per esempio: Giannino, la web radio della mia associazione di volontariato di protezione civile sta facendo quello che ha lamentato le grandi testate non fanno, e trovo che sia vergognoso che i grandi media non ci pensano nemmeno. Io mi unisco. Secondo me, vede, non è una questione neanche di vergogna, perché spesso lo usiamo oramai un po' a sproposito questo termine, non dico lei adesso, dico in generale. Io penso che sia proprio il venir meno della percezione di in che cosa consiste, di fronte alle situazioni straordinarie e di fronte a emergenze che riguardano la vita di decine e decine e migliaia di persone. La vita significa la casa, il luogo dove si vive, il lavoro, le imprese esistenti di tutti i tipi, da quelle agricole agli allevamenti, ai piccoli stabilimenti e così via. Allora, di fronte a questo, il mestiere dovrebbe chiedere ai direttori, che sono quelli che decidono, le imprese editoriali, ricordatevelo, sono tutto ciò che resta nella storia dell'Occidente, che è uguale alle vecchie monarchie assolute. Il direttore è in grado di decidere e di ottenere quello che vuole secondo il contratto giornalistico da chi ci lavora sotto, non è che chi lavora sotto davvero ha potere, non ne ha nessuno, deve eseguire. Però detto questo, i direttori, come in questo non comprendano che ci sia un elemento fondamentale dell'informazione, dell'essere giornalisti, io non giudico nessuno, però ecco, io non lo capisco, a dire la verità, non lo capisco. Ho continuato a scrivere sul Messaggero, ho continuato, però avete capito, l'agenda pubblica non è solo la politica poi finisce per occuparsene se ci sono pressioni dal basso. Quando le pressioni e l'informazione scompare, la politica a propria volta, per così dire, che all'avvicinarsi poi delle elezioni, dei contrasti, pensa soprattutto a quello, e questo è fisiologico, non lo dico per moralismo, è ovvio che il tema decade, per così dire. Ricordate, c'era stato promesso l'avvio, e si è avviata di fatto un grande progetto addirittura di ricostruzione pluriennale, la cosiddetta Casa Italia, per i cui presupposti iniziali, cioè definirne per così dire le coordinate per la messa progressiva in sicurezza delle aree di diversa esposizione al rischio sismico in Italia, perché noi siamo strutturalmente un paese che ha questo problema, in realtà le premesse sono state poste, perché il lavoro diciamo di indirizzo iniziale di Casa Italia, quello affidato al rettore del Politecnico di Milano Giovanni Azzone, è stato fatto e consegnato. Dopodiché, come vedete, non siamo neanche, dalle testimonianze dei due primi amministratori locali, ancora oltre la fase della primissima emergenza, cioè la consegna delle strutture abitative provvisorie. Chiaro, le situazioni sono diverse. La prima che abbiamo sentito, quella di Erquata del Tronto, era comunque una condizione che adesso con la neve vedrà enormi ritardi ancora per il 40% delle casette da consegnare, ma visto siamo a zero ancora, zero. Ecco, adesso abbiamo con noi invece il sindaco di Pieve Torina, quindi restiamo nel maceratese come nel caso di Visso, del sindaco che abbiamo sentito prima, il sindaco di Pieve Torina, che si chiama Alessandro Gentilucci. Grazie di essere con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie. Anche a lei le faccio la stessa domanda che ho fatto a Michele Franchi e a Giuliano Pazzaglini: come sta messo, dica ai nostri ascoltatori in generale, sulle casette dal punto di vista viario, rimozione macerie, ripristino infrastrutture, almeno quelle basilari, la condizione di Pieve Torina più di un anno e al secondo inverno dal sisma? Ma guardi, Pieve Torina ha consegnato, vivono già nell'area delle SAE 40 famiglie e domani consegniamo altre 95 case, quindi altre 95 famiglie rientrano. Quindi complessivamente su quelle che erano state richieste alle consegne a quanto siamo? Complessivamente siamo a due terzi, manca un terzo delle consegne, ma questo guardi è frutto di andare tutti i giorni sul cantiere, sollecitare, chiamare i vertici regionali per dire che mancavano gli operai. Questo l'abbiamo fatto fin dai primi momenti e allora sulla scorta di ciò, alzando un pochino l'asticella, siamo stati vigili affinché i nostri concittadini potessero rientrare in maniera veloce. Sul fronte delle macerie io ho detto che la problematica è strutturale. Mi spiego, io ho un comune, Pieve Torina, con il 93% degli edifici inagibili. Devo demolire gran parte del paese, la via Roma, la via principale, va giù praticamente tutta. Ieri c'è stata la visita del presidente Mattarella, che io ringrazio per la sensibilità. Ho chiesto che ci mandasse almeno una squadra di vigili del fuoco, demolitori, perché gli uffici sono oberati nel riuscire a fare tutte queste gare per demolire le varie abitazioni. Immagini che abbiamo 35 frazioni e con quelle percentuali che le ho appena suggerito, capisce bene che demolire, mettere in sicurezza, riuscire a garantire la riapertura delle zone rosse è una fatica immensa. Ecco allora che ridurre il cratere significa diminuire il numero dei comuni che hanno effettivamente una grandissima esigenza di dover ripartire. Mi spiego meglio. Noi eravamo già a rischio spopolamento, oggi siamo a rischio desertificazione. Perché le aree interne purtroppo in tutto l'Appennino sono così. Pieve Torina rappresenta il centro più grande dopo Camerino con i suoi 1500 abitanti, oggi nonostante questi numeri che le ho citato non siamo più di 500, ecco, quindi mancano all'appello 1000 persone che stanno in giro per la costa o in accampamenti di fortuna. Io devo dire la verità, non ho capito il criterio per cui si è esteso il cratere. Ho continuato anche quest'anno a scrivere, a proporre il fatto che su questo bisognava rivederla l'estensione, perché a mio avviso nella cinquantina al massimo di comuni, come si era detto nelle prime settimane successive, sia ad agosto che poi alle nuove sisme, e lì il regime di deroghe rispetto alle ordinanze e agli obblighi di gara doveva necessariamente essere più intenso rispetto a quello del le altre aree che non hanno il 93% delle strutture edilizie a terra. Non è un po' così, Gentilucci? Esatto, esatto. Quello che mi preme proprio ai radioascoltatori, a lei, di far capire che noi chiediamo che tutti i cittadini, anche quelli che si trovano a 80, 50, 60 chilometri dall'epicentro, abbiano ristorato il danno. Certo. Ma con questo non si può prevedere che il comune di Pieve Torina, le faccio un esempio, è come il capoluogo di Macerata. E se questa discrepanza, questo vulnus, comporta che il piano delle opere pubbliche, mi segua, prevede che ci sia un'opera pubblica ogni anno finanziata, allora qual è il punto? Il punto è che il primo anno, le faccio un esempio così immediatamente è percepibile, il primo anno facciamo l'asilo e quindi progettiamo l'asilo, il secondo anno progettiamo la scuola elementare, il terzo anno progettiamo la scuola media, il quarto anno l'edificio municipale, il quinto anno la casa di riposo, perché così riportiamo lavoro nel nostro territorio. Capisce bene, sì, se dilatiamo nel tempo, ma certo, in cinque anni, e le ho fatto un esempio così banale, ma, no, no, ma potrei andare avanti a Iosa, significa che dopo 10 anni ancora stiamo ricostruendo. Ma stiamo ricostruendo, ma la gente nel frattempo ha dovuto riorganizzarsi la vita, non torna più, cioè, a me sembra così chiaro che non riesco proprio da un anno a capire come sia stato possibile non capirlo subito, però questo evidentemente è un limite mio, io sono un modesto giornalista e posso dire anche a lei, sindaco di Pieve Torina, in gamba, e ci vuole molto molto molto molto molta disposizione a un servizio civile obbligatorio permanente, perché questo si chiede a tutti gli amministratori locali, forza, coraggio, e mi dispiace perché la percentuale di coloro che stanno fuori è ancora così elevata anche a Pieve Torino. Noi adesso abbiamo le informazioni sul traffico e poi torniamo con il sindaco di Amatrice. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta la versione di Oscar. This is the end. Allora, nel frattempo le agenzie battono che guarda, meno male, è stato risposto il fermo di polizia di Roberto Spada, che ieri a Ostia ha dato la testata al giornalista per incidere rompendogli il naso, si è aspettato un giorno, però su disposizione della procura è in fermo, è stato disposto nei confronti dell'autore del colpo di testa, diciamo così. Io l'avrei disposto immediatamente, però almeno ci siamo arrivati, se Dio vuole. Allora è con noi Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, sindaco. No, ma grazie a voi, salve, buonasera. No, noi tentiamo di fare una cosa che speravamo facesse il servizio pubblico, cioè, perché abbiamo sentito già tre suoi colleghi, condizioni diverse, diciamo Arquata del Tronto un po' più avanti, Visso, disastro, Pieve Torina molto problematica ancora, e diciamo tutti d'accordo nel dire l'estensione dell'area dei comuni colpiti ha impedito che nell'epicentro ci fosse un intervento per far saltare, ci volevano molte deroghe, non per speculare o costruire, ma per consentire lo sgombro delle macerie, invece no, addirittura vincoli aggiuntivi contro le piccole imprese locali, abbiamo fatto gli esempi concreti. Pirozzi, ad Amatrice come stiamo messi? Diciamo in braccio agli italiani, spiego. Noi oggi, se siamo vivi, è grazie al contributo degli italiani e delle italiane. Che voglio dire, noi abbiamo aperto un conto corrente grazie a queste donazioni liberali degli italiani, che siamo riusciti a fare una serie di regolamenti comunali in de minimis, dove abbiamo integrato quello che non era previsto dello Stato, perché... Vedi, tutti parlano, diciamo, di ricostruzione, per carità di Dio, e tu sai che ho sempre detto, in tempi non sospetti, perché è scritto anche nel mio libro La scossa dello scarpone, che il terremoto doveva essere circoscritto ai comuni che avevano le zone rosse. Assolutamente. No, in tempi non sospetti, ma oggi io mi devo preoccupare della tenuta del tessuto economico del mio territorio. Se non c'è questo, è inutile parlare di case, è inutile parlare di opere pubbliche, anche se noi, io ecco, cioè le mie famiglie, il 90% è rientrato dentro su 40 aree, però io parlo che nessuno ha pensato che nel lasso di tempo che va dalla distruzione purtroppo alla ricostruzione, secondo me l'unica priorità deve essere quella di consentire la ripresa del mondo del lavoro. Adesso sì, altrimenti la gente torna, che fa? Come via? Non servono le case, lei dico l'ultima. Sai che mi sono battuto insieme agli altri sindaci per la zona urbana franca, che sì, prevedeva l'esenzione delle tasse e dei contributi. Sulle modifiche che ho fatto fare mi accorgo, visto, considerato e richiamato, che di fatto dall'esenzione dei contributi sono escluse le aziende familiari. Quando il 90% del tessuto economico di questa parte del centro Italia sono le aziende familiari. E allora perché ho detto questo in braccio agli italiani e alle italiane? Noi stiamo predisponendo un regolamento che le nostre attività familiari che rientreranno nella zona urbana franca, ma avranno l'esclusione del beneficio dei contributi, saremo noi che rimborseremo i contributi a loro. Però calcola che il vulnus qual è? Che i figli, che sarebbe il mondo della solidarietà, si è sostituito al padre, che sarebbe lo Stato, uno Stato che non ha gli scarponi, perché bastava che venivano nei nostri comuni, ma con una semplice frase: quali sono le attività di qui? È il sindaco che vive la realtà, dice, sono tutte aziende familiari, esatto, non sono le SRL. Ma non è possibile non avere la minima idea di qual è il tipo di impresa nelle aree territoriali italiane. Stiamo parlando proprio di Marte. E questi dispongono che dal 16 dicembre ricomincia l'esazione delle imposte per le imprese dell'area. Ma io spero che nella legge di bilancio questa roba vada su Marte, che qualcuno capisca che non si può chiedere questo. Allora, purtroppo il tempo è finito, ma ci torneremo sopra, quindi Sergio preparati, perché io continuerò a chiederti in questo nelle prossime settimane di far sentire la voce, perché ho l'impressione che in legge di bilancio bisogna fare, si può e si deve forse rompere le scatole alla politica, perché non siate dimenticati. Intanto grazie a voi cari radioascoltatori, appuntamento con me Luca Aldrese domani alle 8:15, alle 24 mattina e poi alle 16 pomeriggio, come sempre qua la versione di Oscar.